Radio Cina Internazionale. Ritmi cinesi. State ascoltando Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, benvenuti al nostro programma musicale Ritmi Cinesi. Il pipa è uno strumento musicale a quattro corde, nato in Cina almeno 2000 anni fa, e spesso definito come il liuto cinese. Col passare dei secoli, pipa è diventato il più popolare e apprezzato strumento musicale della Cina antica e ha dato origine a innumerevoli varianti di liuto come il liuqin. Una versione in scala ridotta della pipa è il biwa, uno strumento musicale giapponese largamente impiegato nella musica tradizionale. Il pipa è formato da un corpo ligneo piriforme, ovvero simile al flauto del vero, dotato di quattro corde di seta, con un numero di tasti variabile tra 12 e 26, e un manico praticamente inesistente. Veniva suonato pizzicante le corde con un largo plettro tradizionale sino alla dinastia Tang. In epoche successive, invece, si affermò la tecnica di suonarlo con le unghie della dita. Amici ascoltatori, ora ascoltiamo insieme un piccolo brano del pipa. Thank you. State ascoltando le trasmissioni in lingua italiana di Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet ai seguenti indirizzi: italian.cri.cn oppure www.cri.cn. Cinesi. State ascoltando Radio Cina Internazionale. Cari amici, benvenuti al programma musicale Ritmi Cinesi. I primi strumenti considerati precursori del pipa apparvero durante il periodo degli stati combattenti. Per migliaia di anni, strumento chiamato pipa o liuto cinese è stato considerato come il re degli strumenti popolari cinesi. A quel tempo c'erano due tipi di pipa. Un tipo aveva un collo dritto con una cassa di risonanza, i cui due lati erano ricoperti di pelle. Si ritiene che l'altro tipo sia stato ispirato dalle forme primitive di Zheng e Kong Hou. Anche questo aveva un collo dritto, rotonda casa di risonanza e anche quattro corde, insieme a 12 standard per le note. Questo modello si è poi evoluto nello strumento noto oggi come Ruan. Il moderno pipa è più vicino agli strumenti dalla Persia e dal Medio Oriente ed è stato introdotto in Cina alla fine della dinastia Qin. Quindi il cosiddetto pipa nella storia non si riferisce solo al pipa con una casa di risonanza a forma di pera, ma a una varietà di strumenti a corde pizzicate. Si può dire che gli strumenti pipa a quel tempo erano simili nella forma, ma diversi nelle dimensioni. Come ad esempio abbiamo detto Yue Qin e Ruan, eccetera. Erano tutti strumenti pipa. Durante le dinastie del sud e del nord, grazie agli scambi culturali con le regioni occidentali lungo l'antica via della seta, uno strumento musicale a quattro corde, con una cassa di risonanza a forma di pera e il collo ricurvo furono introdotti in Cina dalla Persia attraverso l'attuale regione dello Xinjiang. Alcune persone, combinandolo con il pipa cinese, lo trasformarono in un nuovo stile. Grazie ai commercianti antichi, il pipa fu portato nell'intero paese e subito diventato il più popolare e conosciuto tra i liuti a pizzico della musica cinese. Il manico è il prolungamento della stessa casa di risonanza. Ha un fondo panciuto che ricorda i liuti del Rinascimento italiano ed è fornito di tastatura, cioè il ponticelli che sorreggono quattro corde di seta sul manico e sulla tavola. I quattro sottili pirolli, ai lati nella parte alta del manico, mantengono tese le corde. La testa dello strumento musicale è scolpita di solito di drago e la coda di fenice, animali molto apprezzati nei tempi antichi dai cinesi. Tramite la mano destra si pizzicano le corde, mentre la mano sinistra si occupa di dare espressività al suono utilizzando tecniche simili a quelle previste per il violino o la chitarra. Quando si suona, il pipa viene generalmente tenuto in posizione verticale o quasi verticale durante l'esecuzione. Ma è possibile che in periodi più remoti fosse posizionato orizzontalmente, con l'estremità affusolata e puntata verso l'alto. Questo strumento a corde si trova spesso tra le mani delle fate celesti ritratte nei dipinti tradizionali. La costruzione del pipa incarna anche le credenze cinesi sull'universo e sul mondo naturale. La sua forma a mezza pera misura 3 piedi e 5 pollici, che corrispondentemente rappresentano i tre regni, cielo, terra e uomo, e i 5 elementi, metallo, legno, acqua, fuoco e terra. Le quattro corde del pipa rappresentano le quattro stagioni. La tecnica per suonarlo è piuttosto difficile. Viene pizzicato tenendolo in posizione verticale sulle ginocchia. ed è uno degli strumenti cinesi più effettivi. Thank you. Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.cri.cn oppure italian.cri.cn. Ritmi cinesi. Radio Cina Internazionale, amici ascoltatori, bentornati al nostro programma musicale Ritmi Cinesi. Come abbiamo illustrato, durante la dinastia Tang, il pipa divenne assai popolare. A quel tempo il pipa era più largo dell'attuale versione e veniva suonato con un plettro di legno. La tecnica del pipa permette effetti di grande virtuosismo. I tremolii, i pizzicati, i rumori e le altre sonorità di questo strumento si combinano perfettamente tra di loro per creare vive descrizioni di scene di vario genere. Inoltre, il pipa è anche spesso citato nella famosa poesia della dinastia Tang. Per esempio, Bai Juyi, un famoso poeta a quel tempo, descrisse con vivacità la musica del pipa e le sue tecniche in una famosa Ode al pipa. Un giorno, salutando un amico sulla riva del fiume, Bai Juyi ascoltò che qualcuno stava suonando il pipa. La virtuosa era molto brava. Gli ascoltatori intorni si erano commossi per la sua musica, incluso il grande poeta, creando quindi la poesia lunga Ode al pipa, conosciuta molto bene dai cinesi, in cui descrisse così la tecnica interpretativa della virtuosa e la capacità espressiva. Le sue corde grosse tuonano come un assalto vivente. Le sue corde fini sussurrano come cullanti pispigli. Toni alti e bassi si intrecciano e rimbalzano come perle grandi e piccole che rotolano su un vassoio di piatta. cinese è una gloriosa civiltà, una storia lunga 5.000 anni, fatta di leggende, letteratura, medicina, cucina, opera tradizionale, usanze e tanto altro ancora. La Cina è un grande paese in via di sviluppo che sta cercando di realizzare il sogno di grande rinascita della propria nazione, contribuendo nel frattempo umana dal futuro condiviso. Amici ascoltatori, vi invitiamo a seguire il nostro sito Lab Cinitalia e i nostri account sui social media per scoprire tutto sulla Cina antica e moderna. Radio Cina Internazionale, amici ascoltatori, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.cri.cn oppure italian.cri.cn. Ritmi cinesi. Radio Cina Internazionale, amici ascoltatori, al suo apice di popolarità di circa 1300 anni fa, il pipa era uno strumento abituale presso la corte della dinastia Tang. Infatti, per migliaia di anni, il pipa ha regnato come il re degli strumenti cinesi. Il liuto cinese ha guadagnato il suo titolo regale grazie alla sua vasta gamma di tecniche di esecuzione. La sua profondità espressiva e la sua presenza dominante sia nella musica popolare che nelle leggende. Gli antichi affreschi nelle grotte di Dunhuang lungo la via della seta raffigurano questo strumento nelle mani di fanciulle celesti. La musica celestiale, pizzicata dalle loro delicate dita, si diffonde sulla terra come fiori svolazzanti. Il pipa ha un'ampia tonalità e ricca sonorità. Lo si suona con varie tecniche interpretative, descrivendo le scene di diverse atmosfere. Il suo nome onomatopeico deriva dalle sue due principali tecniche di base: pi, scoccare verso l'esterno, e pa, strimpellare all'interno. In realtà vengono usate decine di altre tecniche che lo rendono uno dei più difficili strumenti cinesi. Alcune di queste tecniche, lisando, vibrato, pizzicato e bordamento, solo per citarne alcune, sono familiari anche ai musicisti di strumenti a corde occidentali. Il corpo di legno del pipa può anche essere tamburellato e le sue corde possono essere ridotte a creare un suono simile al clavicembalo. Con questa gamma di espressioni, i pipa possono creare una miriade di atmosfere musicali, da incantevoli melodie a emozionanti racconti di battaglia. Il motivo L'acquato di 10 direzioni per pipa descrive una famosa guerra avvenuta nel 202 d.C. Il virtuoso utilizza le ricche tecniche interpretative, descrivendo un'imponente scena di combattimento. Ora ascoltiamo insieme questo famoso brano. Thank you. Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.cri.cl oppure italian.cri.cn. Ritmi cinesi. Radio Cina Internazionale, amici ascoltatori, benvenuti al programma musicale Ritmi Cinesi. Lo strumento musicale tradizionale cinese pipa è stata adattata dai musicisti cinesi di diversi periodi. Dopo la fondazione della Nuova Cina, i conservatori hanno stabilito le facoltà del pipa, cominciando a formare i virtuosi di questo strumento musicale. Oltre il solo, il pipa suona anche con l'orchestra nazionale, anzi con l'orchestra occidentale. Il famoso suonatore di pipa, Liu Dehai, è un eccellente rappresentante della generazione di musicisti maturati alla fine degli anni 50, noto con gli appellativi di maestro di pipa e tesoro di Stato, gode di una grande fama sia all'interno del paese che all'estero. L'interpretazione di Liu Dehai è pulita, con tonalità stupende e una tecnica matura, dolce e raffinata. Le sue melodie letterarie sono fini e commoventi, e quelle marziali emozionanti, con una forte attrattiva artistica che lascia nel pubblico una chiara impressione. La sua rigorosa formazione professionale, una lunga pratica sul palcoscenico ed insegnamento e l'ampia esperienza lo hanno dotato di una profonda preparazione musicale, eccellendo nell'interpretare le connotazioni interne delle melodie. Dal 1978 al 1988, Liu Dehai ha collaborato con le orchestre sinfoniche di Boston e di Berlino Ovest e con il famoso direttore Seiji Ozawa per interpretare a Beijing, negli Stati Uniti e a Francoforte i concerti del pipa, molto bene accolto dagli spettatori cinesi e stranieri, scrivendo una nuova e brillante pagina dell'integrazione tra musica cinese e occidentale. Ora ascoltiamo insieme alcuni motivi interpretati dal maestro Liu Dehai.